cominciamo a suonare le chitarre. Oh oh oh, cantiamo fra di noi. E chi non vuol ballare, oh, potrà guardare. Che cosa si può fare? Si può fare di meglio che cantare, di meglio che gridare, oh oh. E così via. Cominciamo a suonare le chitarre. Oh oh oh, cantiamo fra di noi. E chi non vuol ballare, oh, potrà guardare. Si può far, di meglio che cantare, di meglio che gridare, oh oh. E così via. Cominciamo a suonare le chitarre.